piccola così. E volevi batterti per me. T'avrei detto solo sì. E volevi conquistare il mondo. E aprirti un'altra via d'uscita per non restare tra due porte. Noi troppo avidi di vita per rassegnarci a quella sorte. Eri piccola così, portavamo il mondo in cima a un letto. Soffrivi di vertigini ed ero io il tuo parapetto. Più di così si può solo smettere di masticare. Più di così non c'è amarezza che mi possa avvelenare. Più di così non c'è carezza che mi possa consolare. Più di così si può solo smettere di respirare. Eri piccola così, ma il primo morso l'hai mandato giù. Hai stretto i denti e detto sì, tu che eri un fuscello poco più. Ho steso le braccia sulle tue, il corpo scosso da mille farfalle. I tuoi piedi dentro le orme mie, che un campo minato questa valle. Più di così si può solo smettere di tremare. Più di così non c'è sembianza che ci possa somigliare. Più di così non c'è distanza che ci possa avvicinare. Più di così si può solo smettere di lottare. Eri piccola così, ma il primo passo l'hai staccato tu.